Parte seconda, la guerra di Lombardia, l'assedio e la capitolazione di Milano. 1. Quando scoppiò la rivoluzione milanese mi trovavo a Napoli. Non seppi resistere al desiderio di raggiungere subito i miei concittadini e mi affrettai a noleggiare una nave vapore per farmi portare a Genova. Appena si diffuse la voce della mia partenza, ebbi la misura di quanto vasta e calda fosse la simpatia che la causa lombarda ispirava alla popolazione napoletana. Durante le 48 ore che precedettero il mio imbarco, la mia casa fu sempre piena di gente. Erano persone di ogni classe sociale che venivano a chiedere che le conducessi con me. I napoletani che avrebbero voluto partire erano parecchie migliaia, ma la nave da me noleggiata non poteva trasportare più di 200 passeggeri. Acconsentii dunque a prendere come un corpo di 200 volontari e la piccola falange, come facile immaginare, si trovò presto a ranghi completi. Raramente si era vista tutta una popolazione voltare le spalle in modo così brusco a vecchie abitudini tranquille per un medesimo pensiero di guerra e di dedizione. Tra i giovani che chiedevano di seguirmi, alcuni, appartenenti alle più note famiglie di Napoli, avevano lasciato di nascosto le loro case per venirmi a trovare e portavano con sé soltanto qualche carlino. Altri, modesti impiegati, rinunciavano senza rimpianto per la vita del campo al posto che aveva dato loro da vivere. C'erano ufficiali che si esponevano alle pene che colpiscono i disertori per imbracciare il fucile contro gli austriaci. Padri di famiglia che si allontanavano dalle mogli e dai figli, un giovane che avrebbe dovuto sposarsi dopo lunga attesa proprio il giorno successivo a quello stabilito per la mia partenza, anteponeva la difesa della patria ai più dolci doveri. Non scorderò mai il momento di quella partenza. Era una giornata splendida, l'imbarco era fissato alle 5 della sera. Quando arrivai al molo, il mare brulicava di imbarcazioni leggere. Accorse da ogni parte per augurarci un viaggio felice. In mezzo a quella flottiglia, il nostro vapore era facilmente riconoscibile per la parata di armi lustreggianti che coprivano il ponte e quasi ne traboccavano. I miei volontari mi aspettavano. Nei brevi istanti degli ultimi preparativi fummo ancora assaliti da innumerevoli richieste. Da tutti i piccoli legni che circondavano il vapore si alzavano voci che supplicavano di aggiungere un nome al nostro elenco, ormai completo. Purtroppo non potevamo far altro che rispondere a tutti con un rifiuto, e quando ci staccammo dalla riva, 100.000 persone gridavano insieme. Tutti ci salutavano con queste parole: vi seguiremo! La traversata fu molto rapida. A Genova fummo accolti con festa. La popolazione milanese si era preparata allo stesso modo per salutare il nostro arrivo con dimostrazioni di simpatia, e il governo provvisorio giudicò prudente associarsi. Nota. Il piroscafo, il Virgilio, giunse a Genova il 31 marzo. In città, come riferì il console pontificio al suo governo, i volontari fecero il loro ingresso a tamburo battente con lo schioppo in spalla. Il popolo che si adunò nelle strade che dovevano passare era immenso e lieviva senza pari. A Milano la Belgioioso entrò con i suoi volontari il 6 aprile dal corso di Porta Romana. Per tutta la via da lei percorsa, scrisse la Gazzetta di Milano, fu immensa la festa e il giubilo della nostra popolazione, affollata di gente e numerose carrozze. Incontrata da numerosi personaggi di quell'illustre città, e appena giunta a Palazzo Marino, ove siede il governo provvisorio, affacciatasi al balcone col presidente Casati, col conte Vitaliano Borromeo e molti altri, fu sì straordinario l'entusiasmo, così strepitoso l'echeggiare di interminabili applausi che a nessuno sarà mai dato di ben ritrarre questa scena caldissima di portentosi affetti. Una curiosa testimonianza è pure quella dell'austriaco conte Hübner, che arrivò a Milano lo stesso giorno in missione diplomatica. Trovammo la città esultante, scrisse. Non si festeggiava, come per un momento temetti, una vittoria italiana su Radeschi, ma l'ingresso della principessa Belgioioso alla testa di 180 giovani napoletani. Al loro passaggio furono fatte fermare le carrozze e io potei contemplare comodamente l'eroina del giorno che un tempo incontravo spesso nei salotti parigini. 10 anni non erano passati senza lasciare tracce, ma lei era sempre bella. Seguita dai suoi giovanotti napoletani, la principessa sventolava una grande bandiera con i colori italiani. Mille e mille fazzoletti venivano agitati dalle finestre, dai balconi, e l'aria risuonava di evviva. Giunta in piazza San Fedele, davanti a Palazzo Marino, la Belgioioso fu ricevuta dal conte Casati, che pronunciò un eloquentissimo discorso. Tra le testimonianze dei moderati italiani è da ricordare, per la sua particolare acidità, la corrispondenza del Giobertiano Massari per La Patria di Firenze del 10 aprile, che scrive: «Spiacque soltanto che l'entrata dei volontari napoletani porgesse occasione ad uno di quegli spettacoli teatrali che stanno sempre male, ma che in certe circostanze solenni sono scandali intollerabili. Una cuffia fra tanti soldati poteva far ridere», proseguiva Massari, «ma che la Belgioioso avesse osato anche comparire al balcone di Palazzo Marino gli sembrava disgustoso. Non vi dirò quale fosse l'uscita della signora principessa, perché intendo rispettare il pudore e la verecondia dei lettori». Quanto a Casati, si affrettò a scrivere al segretario di Carlo Alberto: «È arrivata la principessa Belgioioso con una truppa di 150 avventurieri. Temo che mi abbia fatto un cattivo regalo. Tuttavia, ho dovuto rappresentare la scena di arringare questa truppa». Riprendo la narrazione. I miei 200 volontari erano, dopo i soldati piemontesi, i primi italiani venuti in Lombardia per partecipare a quella che allora era chiamata la crociata o la guerra santa. La presenza a Milano del primo corpo di volontari napoletani era una sorta di garanzia che la guerra contro l'Austria sarebbe stata una guerra italiana anziché lombardo-piemontese. Di lì a poco, la partenza da Napoli di altre 4 legioni venne a rafforzare il sentimento di fiducia che l'arrivo dei primi volontari aveva ispirato. Soltanto qualcuno dei nostri governanti rifiutò di condividere questo sentimento. Mi sentivo in certo modo responsabile dei giovani che mi avevano seguito da Napoli e quindi cercai più di una volta di ottenere per loro l'interessamento del governo provvisorio, ma troppo spesso mi scontrai con una cattiva volontà che non si mascherava per nulla. Mi capitò, per esempio, di presentare i miei volontari napoletani come l'avanguardia di un esercito di 100.000 uomini composto da tutti i giovani italiani, i quali non avrebbero tardato a soccorrere, ad accorrere al primo appello. «Dio ci scampi da un simile soccorso!» si esclamò. Giudicai inutile prolungare la discussione. Eppure, alla difesa di Treviso e di Vicenza hanno concorso volontari napoletani e oggi ancora Venezia rinserra, tra le sue mura attaccate dal nemico, difensori che hanno lasciato, per soccorrerla, le belle rive di Sorrento o le gole selvagge della Calabria. Quando arrivai a Milano, gli austriaci avevano lasciato la città appena da 8 giorni e le barricate ingombravano ancora le strade. Era la prima volta che vedevo i colori italiani sventolare sulle mura della capitale lombarda. Provai una gioia profonda, assoluta. Tutto mi diceva che l'entusiasmo politico non era scemato, ma tutto mi indicava, nello stesso tempo, che la situazione del paese non era compresa da quelli cui era toccato il difficile compito di dominarla e dirigerla. Se volgevo lo sguardo al teatro delle operazioni di guerra, non mi sentivo per niente rassicurata dalle manovre dell'esercito piemontese, e neppure dal modo in cui veniva utilizzato il generoso impeto dei nostri volontari. Carlo Alberto, alla testa di più di 50.000 uomini che formavano truppe ordinate e valenti, marciava sulle piazzaforti ancora occupate dagli austriaci, mentre un appello alle armi rivolto a tutta l'Italia costringeva gli altri principi a inviare in Lombardia contingenti militari. E per un certo periodo, nei pochi giorni che precedettero la capitolazione di Durando e il richiamo delle truppe napoletane, il totale delle truppe regolari italiane in campo contro l'Austria toccò quasi le 100.000 unità. Mentre il generale Perrone stava organizzando il contingente lombardo che avrebbe dovuto essere sufficiente, anzi più che sufficiente, a colmare le eventuali perdite di quell'esercito. Eppure nessuno seguiva senza inquietudine gli sviluppi della guerra. Attorniato dal suo vecchio stato maggiore di conti e marchesi piemontesi, Carlo Alberto si dava a elaborare piani strategici che avrebbero forse fatto onore a Federico il Grande o a Carlo XII, ma che erano privi di senso dopo la rivoluzione operata da Napoleone nell'arte della guerra. Le truppe piemontesi avanzavano verso Mantova e Verona a piccole tappe, perdendo tempo prezioso in lunghi lavori da guerra di posizione, come camminamenti, fortini, eccetera, che non sarebbero mai serviti a niente, mentre giorno dopo giorno arrivavano radeschi dalla Germania rinforzi numerosi. L'entusiasmo dei soldati piemontesi si spegneva invece, bisogna ben confessarlo, per quei penosi lavori che li tenevano bloccati lontano dal nemico. Fu soprattutto l'esercito piemontese a doversi lagnare del governo provvisorio. Le autorità comunali, che erano state dappertutto confermate nelle loro funzioni, erano per la maggior parte legate al potere austriaco e così viveri destinati ai piemontesi furono spesso consegnati al nemico. Inoltre non c'era manovra delle truppe italiane che passasse inosservata alle spie di Radeschi. Da questi fatti nasceva una diffidenza che presto avrebbe separato fatalmente due popolazioni, la cui unione sarebbe stata tanto importante per gli interessi italiani. Verso la frontiera, difesa dai nostri volontari tanto disprezzati, la guerra aveva un carattere diverso. Bisogna dirlo, a lode delle giovani legioni italiane, le sole vie attraverso cui neppure un austriaco poté aprirsi il cammino furono quelle dalle Alpi Trentine scendendo verso Brescia, Bergamo e Salò, che erano affidate alla guardia dei volontari. Questi ultimi erano accusati, è vero, di poca disciplina e di scarsa unità nei loro movimenti. Per molti giorni, in effetti, dopo l'inizio delle ostilità, i comandanti Manara, Anfossi, Tamberg, Griffini, Torres, Borri e Arcioni erano rimasti abbandonati alle proprie ispirazioni personali e ognuno di loro aveva guidato la sua colonna come gli pareva meglio. Poi si sparse la voce che il Trentino era stato occupato dai nostri volontari e il timore di azioni suscettibili di attirare su di noi l'irritazione della dieta di Francoforte spinse il governo provvisorio di Milano ad affidare il comando delle colonne che operavano sulla frontiera al generale Allemandi, piemontese di origine, ma svizzero di adozione. Le inspiegabili marce e contromarce che i volontari dovettero eseguire dietro ordine di quel generale, con conseguenze spesso disastrose, fecero ben presto gridare al tradimento. Secondo Pisacane, il governo provvisorio aveva messo Allemandi a capo dei volontari solamente per deludere lo slancio che li animava. Riferirò solo uno degli episodi di cui si è addossata la responsabilità al generale Allemandi. Nei primi giorni di aprile un gruppo di volontari della colonna Manara si era spinto sino al villaggio di Castelnuovo, situato a sud del lago di Garda, sulla grande strada che collega Milano a Venezia, e vi si era attardato. Sorpresi durante la notte da forze austriache 10 volte superiori, i volontari lombardi riuscirono, grazie al loro valore e al loro sangue freddo, a rompere il cerchio in cui erano chiusi e a ritirarsi in buon ordine. Ma Castelnuovo restava e gli austriaci decisero di sfogare la loro rabbia sugli abitanti. Dagli spari e dal suono delle campane a martello, altri volontari rimasti accampati presso la riva del lago compresero che a Castelnuovo si stava combattendo. Il generale Allemandi, avvertito, si decise a mandare da Salò alcuni uomini a soccorrere lo sfortunato villaggio. In un lampo i volontari sono riuniti e pronti a partire. Ricevono elogi per il loro slancio e l'ordine di imbarcarsi su un battello a vapore che li deve trasportare vicino a Castelnuovo. Quei volontari erano in maggioranza giovani di buona famiglia, usi a una vita comoda e anzi a qualche mollezza, e non avevano conosciuto il fuoco nemico, né erano rotti alle fatiche del campo. Eppure erano impazienti e gioiosi all'idea di affrontare gli austriaci. Il battello aveva raggiunto il largo. I volontari scorgevano a una certa distanza un punto luminoso il cui riflesso arrossava una parte del cielo. Intuivano che là Castelnuovo era in fiamme e avrebbero raggiunto la terra a nuoto pur di far presto. Passano un'ora, 2 ore e Castelnuovo non sembra avvicinarsi. Uno dei volontari, che aveva prestato servizio tempo prima nella marina austriaca, alla fine sospetta un sabotaggio e scende nel locale delle macchine. I rubinetti erano aperti, sicché il vapore, anziché spingere la ruota, si disperdeva. Risale sul ponte e dal tremante macchinista, cui chiede spiegazioni, si sente rispondere che il fatto è dovuto a un ordine del capitano del battello. Si informa il comandante del distaccamento dei volontari. Quello del battello è arrestato e la macchina è rimessa in moto, ma era troppo tardi quando i volontari riuscirono a raggiungere la riva al termine del giorno. Di solito bastano 40 o 45 minuti per andare da Salò a Castelnuovo. L'ultima casa di Castelnuovo terminava di bruciare e spirava l'ultima vittima degli austriaci. Il capitano del battello fu consegnato al generale Alemandi e ai magistrati civili di Salò perché fosse processato. Fu un atto inutile, perché in capo a 2 giorni gli tornò in libertà, rimise piede sul battello e continuò ad averne il comando. Poco dopo il generale Alemandi fu richiamato dal governo di Milano, che ingiunse alle autorità di Bergamo di farlo scortare. Il governo centrale aveva inteso chiedere per lui una scorta d'onore, ma la voce del tradimento del generale era così diffusa che a Bergamo si ritenne che si dovesse trattare di una scorta di sicurezza. Messo in mezzo a uno squadrone incaricato di accompagnarlo fino a Milano, il generale giunse in città un mattino con il triste apparato che si riserva ai prigionieri di Stato. Il governo lombardo si affrettò ad accordargli una riparazione piena e totale, non si aprì nessuna inchiesta pubblica e ufficialmente si dichiarò che il generale Alemandi era un patriota eccellente. Il colonnello Giacomo Durando, autore di un'opera sull'Italia e fratello del comandante dell'armata romana, fu promosso generale e succedette ad Alemandi nel comando dei volontari. Non mi perderò a riferire la storia degli scontri e delle prove penose cui fu esposta la pazienza delle legioni affidate al generale Giacomo Durando, ma prima di iniziare il racconto dei fatti che avvennero nel cuore della Lombardia, accennerò alle principali posizioni militari assegnate ai volontari. Quello che già ho detto mi dispensa dal precisare con quanto valore quelle posizioni furono difese. Le colonne di Manara, Anfossi e Tamberg presidiavano le vie che portavano dai laghi di Garda e di Idro verso il Trentino, la valle di Lodrone, la Rocca d'Anfo, il ponte di Storo, la valle del Caffaro, i monti del Tonale, eccetera. I colonnelli Griffini, Torres e Arcioni erano nella zona di Mantova. A parte la prima colonna di volontari napoletani, che fu incorporata nella colonna Tamberg, altre legioni degli stessi volontari furono avviate via Po da Pavia verso Mantova e il Veneto. Battaglioni di volontari dei Ducati presero la stessa direzione, mentre i volontari toscani e tra gli altri il battaglione universitario di Pisa si accamparono nei dintorni di Mantova. Il Veneto tutto intero era affidato alla legione dei volontari di Antonini, giunta da Parigi e composta da italiani, francesi e polacchi. Nel Veneto era stata inviata anche una parte della Guardia Nazionale di Milano, che aveva ottenuto di essere mobilitata, e vi erano stati aggregati seminaristi di quella città. Tale, dunque, era la situazione delle forze italiane alle frontiere, e nel Veneto vari corpi di volontari lottavano contro difficoltà innumerevoli con coraggio ostinato. In Lombardia l'esercito piemontese doveva affrontare gli austriaci, padroni di alcune piazze forti. Il modo di operare delle truppe così divise può essere descritto con poche parole. Se l'esercito regio operava con troppo calcolo, i movimenti dei volontari mancavano completamente di metodo. La guerra si combatteva da una parte con la lentezza di una tattica ormai superata, dall'altra con la temerarietà che nasce dall'inesperienza. Ecco quello che succedeva intanto a Milano.